Il gigante egoista di Oscar Wilde. Ogni pomeriggio, appena uscivano dalla scuola, i bambini avevano l'abitudine di andare a giocare nel giardino del gigante. Era un grazioso e vasto giardino con erba soffice e verde. Qua e là, sull'erba, c'erano bellissimi fiori che sembravano stelle e 12 alberi di pesco che in primavera fiorivano di bianco e rosa e in estate davano frutti succosi. Gli uccelli si posavano sugli alberi e cantavano così dolcemente che i bambini interrompevano i loro giochi per ascoltarli. «Come siamo felici qui!» gridarono gli uni agli altri. Un giorno il gigante tornò. Era stato a visitare suo fratello, l'orco di Cornovaglia, e si era trattenuto con lui per 7 anni. Dopo 7 anni aveva detto tutto quanto aveva da dire e si era deciso a ritornare nel suo castello. Quando arrivò, vide i bambini che giocavano nel giardino. «Che cosa state facendo laggiù?» gridò con voce burbera, e i bambini scapparono via. «Il mio giardino è mio!» proclamò il gigante. «Chiunque può capirlo, e non permetterò a nessun altro di giocarci!» Così vi costruì un alto muro tutto intorno e mise un cartello. «Vietato l'ingresso. I trasgressori saranno perseguiti a termini di legge.» Era veramente egoista quel gigante. I poveri bambini ora non avevano più un posto dove giocare. Provarono a giocare sulla strada, ma la strada era veramente sporca e piena di polvere e sassi acuminati, e a loro non piaceva. Erano soliti gironzolare intorno alle mura invalicabili dopo l'orario di lezione, parlando tra loro dello stupendo giardino all'interno. «Come eravamo felici lì!» si dicevano. Poi arrivò la primavera e in tutto il paese spuntarono deliziosi fiorellini sui quali svolazzavano gli uccellini novelli. Soltanto nel giardino del gigante egoista era ancora inverno. Gli uccelli non si preoccupavano di cantare perché non c'erano i bambini e gli alberi si dimenticarono di fiorire. Un solo bellissimo fiore mise la sua testolina fuori dall'erba, ma quando vide il cartello fu così dispiaciuto per i bambini che si infilò nuovamente nella terra e ritornò a dormire. I soli contenti furono la neve e il gelo. «La primavera ha dimenticato questo giardino», esclamarono, «così che noi potremo viverci tutto l'anno». La neve coprì l'erba con il suo grande mantello bianco e il gelo dipinse d'argento tutti gli alberi. Quindi invitarono il vento del nord a stare con loro ed egli venne. Era avvolto in una pelliccia e ruggì dal mattino alla sera nel giardino e abbatté i comignoli. «Questo è un posto piacevolissimo», disse. «Dobbiamo invitare la grandine». E la grandine arrivò. Ogni giorno, per 3 ore, questa crepitò sul tetto del castello finché non ebbe rotto la maggior parte delle tegole. E allora si mise a correre senza mai fermarsi intorno al giardino, più forte che poteva. Era vestita di grigio e il suo alito era di ghiaccio. «Non capisco proprio come mai la primavera tardi così tanto ad arrivare», disse il gigante egoista, guardando dalla finestra il suo giardino freddo e coperto di neve. «Spero che il tempo possa cambiare presto!» Ma la primavera non arrivò, e nemmeno l'estate. L'autunno portò frutti dorati in tutti i giardini, ma non in quello del gigante. «È troppo egoista!» disse l'autunno. Così là era sempre inverno, e il vento del nord, la grandine, il gelo, la neve danzavano qua e là fra gli alberi.